con Stefano Finesi di Teodora Film per parlare del film La fattoria dei nostri sogni al cinema dal 5 settembre 2019. Stefano, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Lo raccontiamo brevemente? Sì, questo film diciamo è veramente un piccolo gioiello. Già negli Stati Uniti è diventato un caso perché era uscito in pochissime sale e ha raggiunto addirittura 300 schermi, scalando la classifica degli incassi, e questo solo grazie al passaparola. Considerate che è un documentario, anche se forse sarebbe meglio definirlo una specie di diario filmato, girato nel corso di 8 anni da una coppia che ha fatto quello diciamo che molti di noi pensano a volte ma non riescono a fare, cioè cambiare radicalmente vita. Hanno lasciato la città e si sono messi in testa di costruire un'enorme fattoria biologica e sostenibile. E il film racconta questa avventura, un'avventura che appunto dura 8 anni e rispetto magari anche a tanta retorica green che si sente ormai in questi giorni, insomma, il film ha il pregio di raccontare questa avventura appunto anche mostrando le debolezze, i sedimenti, gli errori, per cui è veramente un film affascinante, oltre che importante, perché diciamo quella specie di disarmonia sostenibile, come la chiamano loro, che alla fine riescono a raggiungere dopo 8 anni con la loro fattoria, è comunque un piccolo esempio di convivenza con la natura che oggi è quanto mai importante, insomma. I risultati che dicevi rispetto agli incassi negli Stati Uniti sono piuttosto indicativi in un paese in cui l'OGM e le monoculture intensive invece sono molto forti. No, certo, in realtà proprio per quello, insomma, è stato anche per quello un successo a sorpresa, oltre al fatto che il mercato poi del cinema americano è anche molto più competitivo, insomma, per un film, per un piccolo documentario girato da due sconosciuti praticamente. Mm-hmm. Per cui in quel senso vedere ancora oggi un piccolo film che solo grazie al passaparola e a delle ottime critiche riesce a farsi strada, insomma, è una cosa che comunque fa piacere a prescindere, ecco. Oh, un regista che mi dicevi viene dal documentario scientifico. Sì, perché questa coppia che appunto lascia la città per gettarsi in questa avventura nella campagna, essendo californiani, lei è una cuoca e lui è appunto un operatore cinematografico. La cosa anche affascinante del film è che appunto John Chester, che l'ha diretto, da ex operatore soprattutto con National Geographic e quindi specializzato nelle riprese della natura, una volta diventato contadino militante e che deve raccontare con la cinepresa la sua avventura, insomma riesce anche a dare al film una qualità di immagine altissima. Infatti molte critiche l'hanno paragonato ai lavori di BBC Earth, insomma, o a The National Geographic. Il pubblico poi vedrà, la qualità in termini appunto strettamente cinematografici del film è altissima. E lo stesso John Chester poi racconta che una delle grandi difficoltà del film è stata anche questa, cioè fare il regista e il contadino allo stesso tempo. E questo infatti è anche molto affascinante, tanto più che poi lui alla fine dice tutto sommato però fare un documentario e fare il contadino alla fine hanno qualcosa in comune. Si tratta di osservare e stare lì ad aspettare che accada qualcosa, insomma. Quindi è affascinante anche questo parallelismo tra, insomma, la coltivazione biologica e diciamo un'agricoltura sostenibile e anche il modo di fare cinema, ecco. Sì, poi colpisce il fatto che si tratta di un diario, quindi in vari ruoli è coinvolto, perché è contadino, perché è regista e perché è operatore. Uno degli aspetti che colpisce è che lui filma le cose mentre succedono, quindi questo prevede una lunga preparazione. Sì, certo. Ma poi il film, come dire, si muove a vari livelli, ci sono delle riprese appunto meravigliose fatte alla ralentier, poi magari c'è la ripresa sgranata notturna fatta all'improvviso. c'è una parte molto divertente in cui lui, per capire che cosa esattamente succede la notte nella fattoria, perché poi c'è anche il confronto con i coyote, insomma, mette una serie di telecamere notturne e, diciamo, il giorno dopo, riprendendo le telecamere, c'è questo montaggio esilarante con tutta l'incredibile vita notturna della fattoria, proprio raccontata attraverso queste videotrappole. Quindi il film è anche poi affascinante, parlando in termini strettamente cinematografici, per il modo in cui appunto cambia anche linguaggio e mescola un tipo di approccio visivo diverso, insomma, nel corso del film. Che tipo di uscita sarà? Beh, noi ovviamente usciamo come da tradizione con Teodora, che come sapete è una compagnia super indipendente, usciamo piccoli con l'obiettivo poi di allargarci, quindi usciamo sulle 25 copie, ma con speranze molto buone di allargarci. Anzi, invito, insomma, tutti gli ascoltatori interessati al film ad andarlo a vedere, come sempre, il prima possibile, nel primo weekend, in modo da consentirgli poi quel successo iniziale che poi fa stare il film di più in sala, insomma. La fattoria dei nostri sogni al cinema da giovedì 5 settembre 2019 per la regia di John Chester, per Teodora Film un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo, a presto Stefano. Grazie mille, ciao. Ciao, ciao, ciao.